2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 12 ottobre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Ogni settimana, insieme ai nostri ospiti, insieme anche a voi e ai nostri ascoltatori, cerchiamo di capire come la tecnologia ci cambia la vita. E naturalmente ce la sta cambiando molto, ma non abbiamo ancora visto nulla. Nei prossimi anni vedremo rivoluzioni digitali incredibili grazie alla tecnologia, all'innovazione digitale. Parleremo presto di stampa 3D. Il nostro primo approfondimento riguarda la stampa 3D. Vi ricordo che potete contattarci tramite Twitter, Facebook, la nostra email 2024@radio24.it. Ci potete cercare sui social network, appunto, digitando e cercando o Enrico Pagliarini oppure 2024. Da questa settimana un ascoltatore potenziale di Radio 24, ma anche di molte altre radio italiane, che avesse sulla propria automobile un ricevitore per ascoltare la Digital Radio, quindi quello che fino a qualche tempo fa chiamavamo DAB, un potenziale ascoltatore che partisse dall'Austria, arrivasse a Roma, potrebbe ascoltare il nostro segnale ininterrottamente, senza soluzione di continuità in digitale, con una qualità simile al CD. Potete ascoltarci oltre che in Digital Radio e naturalmente in FM in buona parte dell'Italia, anche in streaming sul nostro sito internet o naturalmente, come vi consiglio settimana dopo settimana, anche nella nostra versione podcast. Andate sul nostro sito www.radio24 e lì trovate tutte le informazioni. Se non vi orientate bene, non avete ancora capito come si fa ad abbonarsi al podcast, scriveteci una bella email. Iniziamo con alcune notizie della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che arriva da Apple, che ha annunciato che dal prossimo 25 ottobre arriveranno anche sul mercato italiano i nuovi iPhone 5S e 5C. I prezzi saranno a partire da 729 euro, quindi come l'attuale 5, ma poi naturalmente ci saranno tutte le offerte degli operatori. Partiamo da questa notizia perché le prossime in qualche modo si collegano all'annuncio di Apple. Digital News. Perché dopo l'azienda americana anche HTC utilizzerà un lettore di impronte digitali per sbloccare il telefono su un nuovo prodotto. Si tratta del One Max, che verrà presentato il 15 ottobre in Cina. Lo One Max è un nuovo phablet, si chiamano così, un mix tra tablet e smartphone, tra phone e tablet, quindi è per questo che si chiamano phablet. Avrà un display da quasi 6 pollici, quindi questa categoria che sta tra i 5 e i 7 pollici, diciamo così, viene definita con questo nome divertente, phablet. Digital News. A proposito di impronte digitali, anche Samsung ha annunciato di aver acquistato per 650 milioni di dollari una società che si chiama Fingerprint Cards, società specializzata nel riconoscimento delle impronte digitali. L'azienda verrà inglobata nella struttura di Samsung. Digital News. E c'è un'altra notizia che riguarda i dati biometrici che vengono e verranno sempre più utilizzati all'interno di strumenti di elettronica di consumo, terminali come smartphone e tablet. Allora, Synaptics, che è il leader mondiale nei trackpad per notebook, quindi molti notebook hanno a bordo un prodotto di Synaptics. Il trackpad è praticamente quello spazio nel quale con il dito pilotiamo il cursore, la freccetta che sta sullo schermo del nostro computer. Allora, Synaptics ha acquistato per 92 milioni di dollari una società specializzata in lettori di impronte digitali, si chiama Validity. L'acquisizione potrebbe dare un impulso alla diffusione dei lettori sui notebook e magari c'è chi dice anche essere integrata all'interno del trackpad. Digital News. Tutto ciò però accade in un mercato dei computer portatili che continua a perdere quota per il sesto trimestre consecutivo. Secondo Gartner, le vendite sono scese dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il calo, secondo IDC, è del 7,6%. Comunque, insomma, possiamo dire attorno all'8%. Nel mondo, nel trimestre, sono stati venduti circa 80 milioni di computer portatili. Segnali di ripresa arrivano dagli Stati Uniti, dove il mercato cresce invece del 3,6%. Digital News. In questo mercato Lenovo consolida la prima posizione con il 17,6%, HP 17,1%, Dell 11,6%. Dietro ci sono Acer con l'8,3% e Asus con il 6,1%. Entrambe queste aziende perdono però il 22%, mentre invece guadagnano qualche cosa sia Lenovo che HP che Dell. Da rilevare che 39 computer portatili su 100 appartengono ad altri produttori, quindi anche questo è un mercato molto frammentato. C'è chi dice, ma io non ci credo molto, che il mercato potrebbe riprendere quota con l'arrivo di Windows 8.1. Ricordiamo che l'aggiornamento all'attuale versione di Windows sarà disponibile per tutti a partire dal 18 ottobre, quindi la prossima settimana. Intanto Microsoft ha assegnato i $100,000 promessi dall'azienda a chi avesse scoperto una vulnerabilità di Windows 8.1 nella versione preview. Altri 6 ricercatori si sono aggiudicati $28,000 per aver scoperto vulnerabilità critiche nella versione preliminare di Internet Explorer 11. Notizia che riguarda il mercato italiano, il mercato televisivo. Telecom Italia Media e il gruppo L'Espresso hanno firmato un accordo preliminare non vincolante per creare un unico operatore sul digitale terrestre. Se l'accordo andrà in porto, nascerebbe un'azienda che potrebbe fare concorrenza sia a Rai che a Mediaset in termini di capacità trasmissiva, perché avrebbe questa nuova società 5 frequenze nazionali. Secondo indiscrezioni che però sembrano posare su solide basi, Panasonic terminerà la produzione dei TV al plasma nel 2014. Una brutta notizia, una notizia triste. Nonostante la indiscussa qualità delle immagini e la superiorità rispetto ai televisori LCD LED, il plasma soffre sul mercato, è anche una questione purtroppo di moda. Panasonic continua a registrare perdite nella divisione e la nuova frontiera sembra essere oramai quella dei TV OLED, e sembra anche imminente un grosso annuncio da parte di Panasonic relativo agli OLED. Digital News. Ultime due notizie. Mozilla ha annunciato l'aggiornamento del proprio sistema operativo per smartphone. Si tratta del Firefox OS 1.1, OS sta per Operating System. Firefox è utilizzato su telefoni venduti in Spagna, Colombia, Venezuela, Polonia, e nei prossimi mesi arriveranno nuovi terminali sempre basati su Firefox OS in Brasile, Germania, Grecia, Ungheria, Serbia e Montenegro. Per l'Italia esiste un accordo tra la Mozilla Foundation e TIM, ma finora non è stato annunciato nessuno smartphone per il nostro paese. Se avete qualche informazione, perché magari lavorate all'interno di TIM e ascoltate 2024, beh, scriveteci una email, non divulghiamo le vostre credenziali, il vostro nome, ma insomma potrebbe essere utile saperlo. Interessante Firefox OS, che punta per il momento soprattutto su smartphone di fascia medio-bassa e soprattutto nei mercati più deboli rispetto a quelli occidentali, dove si punta molto su smartphone di prezzo medio-basso, anche se, come avete sentito, arriveranno smartphone anche in Germania. Ultima notizia: ci sono grossi investimenti, lo sapete, in tutto il mondo per migliorare la ricerca su internet e per creare concorrenti di Google. Ci sta investendo anche l'Unione Europea, e l'ultima notizia riguarda e arriva dalla Russia, che attraverso la società telefonica di Stato Rostelecom ha lanciato un progetto da $20 milioni per creare un nuovo motore di ricerca che si chiamerebbe Sputnik, che faccia concorrenza in quel caso a Yandex, che è il motore di ricerca prevalente dominante in Russia e ha il 62% del mercato. Adesso ci buttiamo nel nostro primo approfondimento, parliamo di stampa 3D. Esistono da tempo a prezzi che oramai sono inferiori anche ai 1000 euro e sono sempre più in discesa, macchine in grado di stampare oggetti tridimensionali attraverso un iniettore di materiale plastico. Normalmente si usa un materiale plastico, la stampante 3D crea pezzi fisici veri e propri partendo da un disegno digitale, quindi da un file. Si fa un progetto e da lì si parte. Allora, uno dei temi di cui si discute e si discuterà tantissimo nei prossimi anni è quello della pirateria. Se oggi ci chiediamo come proteggere adeguatamente opere protette dal diritto d'autore nell'era digitale, quindi fondamentalmente file, visto la facilità con cui è possibile copiare e replicare un file, pensate alle canzoni, ma possiamo pensare a qualsiasi altra cosa che oramai è digitale, ci si sta già da tempo domandando, ma lo si farà sempre di più nei prossimi anni, come sarà possibile proteggere file che diventano fisici proprio grazie ad una stampante 3D, come evitare che vengano fatte delle repliche non tenendo conto dei brevetti o della proprietà intellettuale che c'è su progetti che diventano pezzi fisici. Allora, secondo Gartner, entro il 2018 la stampa 3D genererà perdite per almeno 100 milioni di dollari all'anno in termini di proprietà intellettuale non riconosciuta. Considerando tutti i pezzi che verranno stampati, appunto copiandoli da originali brevettati. Poi ci sono mille altri dibattiti, ne abbiamo parlato anche a 2024, delle conseguenze che ci possono essere se si stampano particolari pezzi. Ad esempio, pensate, lo è stato fatto ma in maniera provocatoria negli Stati Uniti, se si stampa un pezzo di una pistola. Pensate in paesi dove questo mercato è fortemente controllato. Beh, se uno a casa prende un file e quindi prende il progetto di una pistola e si stampa dei pezzi e poi assembla una pistola, oggi si possono fare pistole rudimentali, ma con l'evoluzione della tecnologia questo diventerà sicuramente un problema e un tema di forte dibattito. Parliamo di stampa 3D e saluto Marco Rizzuto, uno dei fondatori di Fab Totum, benvenuto a 2024 Marco. Grazie, ciao. Tu hai fondato assieme a un tuo socio, giusto? Una startup, corretto dire, esatto. Startup. Siete già una società che comincia a lavorare e direi che i vostri primi prodotti usciranno sul mercato, avete già stabilito all'inizio della metà forse del 2014. A maggio del 2014. Senti, voi state raccogliendo un sacco di soldi su Indiegogo. Quanto avete raccolto fino ad adesso? Allora, ad oggi abbiamo raccolto quasi $470,000, che è una cifra notevole, e ci ha permesso sostanzialmente di finanziare l'apertura della nostra società e il setup aziendale, cioè riservarci degli spazi e dedicarci delle strumentazioni e degli materiali. Uffici, laboratori, eccetera, eccetera. Diciamo agli ascoltatori che Indiegogo è una delle piattaforme di un fenomeno di cui si parla spesso, del crowdfunding, cioè piattaforme dove startup possono raccogliere finanziamenti. Dici due o tre regole di base per accedere a queste piattaforme. Non tutti possono naturalmente partecipare, cioè diciamo potenzialmente tutti, però ci saranno dei vincoli, no? Assolutamente. Allora, Indiegogo, come molte altre piattaforme di crowdfunding, è una piattaforma democratica, cioè ammette chiunque. Il limite è che devi presentare un'idea, non un prodotto. In questa idea la gente investe, e quindi investendo nella tua idea ti permette di creare il prodotto. Quindi tu gli devi portare una visione, e questa è la prima regola base che molti dimenticano. Voi avete raccolto più di quasi $500,000, che sono effettivamente un sacco di soldi. Si può donare anche un dollaro, giusto? Cioè donare, si può finanziare la vostra idea, sposare la vostra idea anche con un dollaro, giusto? Assolutamente. Fino al prezzo del materiale che te vuoi dare come premio, perché di fatto si danno premi. E alcune persone addirittura danno delle visite gratuite poi alla sede produttiva quando il prodotto è pronto, oppure delle cene con i fondatori. E voi avete fatto anche questo? No, noi no. Cene no. No, perché portare la gente in Italia sarebbe stato costosissimo. Un po'. State ricevendo soldi da tutto il mondo o ci sono zone un po' più vocate? Decisamente sì. Allora, un po' per vocazione tecnologica e un po' per vocazione del crowdfunding come concezione di contribuzione. Sì. La maggior parte delle contribuzioni arrivano dagli Stati Uniti, dalla costa ovest per essere precisi, cioè dalla California. dove non a caso c'è tutto l'ICT, cioè l'Information Computer Technology degli Stati Uniti, e dai paesi europei più lanciati, cioè la Germania e l'Inghilterra. Mm. Ultima domanda sul finanziamento, poi magari ne riparliamo. Sono molti quelli che vi hanno dato $1,000, perché questo mi sembra che sia una delle proposte più grandi, giusto? Assolutamente, sì. La maggior parte ci ha dato quella cifra. E devo dire $1,000, così? Sì. E non solo, alcuni di questi ci hanno dato quella cifra senza volere in cambio la stampante. Fantastico. Allora, tu effettivamente hai citato la stampante e gli ascoltatori diranno: ma non dovevate parlare di stampa 3D? Lo facciamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata, stiamo parlando di stampa 3D e con noi Marco Rizzuto, uno dei fondatori di Fab Totum. Dunque, voi avete da poco vinto una competizione molto interessante all'interno del PoliHub, l'incubatore di imprese della Fondazione Politecnico di Milano, che si chiama Switch to Product, cioè passare dall'idea al prodotto. Allora, Marco, qual è la vostra idea? La nostra idea è quella di costruire un dispositivo che noi chiamiamo fabbricatore personale, che deve portare avanti la stampa 3D e superare quel paradigma che è quello di stampare semplicemente oggetti dal digitale al fisico, e portarlo a una situazione in cui tu in realtà con questa macchina puoi non solo lavorare materiali diversi, perché ricordo che le stampanti 3D odierne sono limitate ai polimeri, ma anche delle plastiche, esatto, ma anche scansionare, quindi tridimensionalmente acquisire oggetti dalla realtà. Allora, queste tre funzioni, scansionare, lavorare col taglio e stampare, creano un flusso, diciamo, bidirezionale tra la realtà e il virtuale. Cioè, sì, quindi la vostra macchina fa già, perché ci sono già dei prototipi, si possono anche vedere alcuni video, stampa 3D tradizionale. Funziona come quasi uno scalpello e quindi può anche scalfire prodotti e creare prodotti per sottrazione, quindi togliendo materiale, e fa anche da scanner 3D. Queste sono le tre funzioni fondamentali. Ricordiamo, lo lascio fare a te che sicuramente sei più esperto di me, tu sei un architetto, giusto? Esattamente. Per stampa 3D che cosa intendiamo? Che cosa è possibile fare ad oggi? Allora, ci sono delle grossissime aspettative su quello che è possibile fare con la stampa 3D. Diciamo che la stampa 3D è nata come una tecnica di prototipazione rapida in ambito industriale inizialmente, quindi per componenti molto complessi la stampa 3D può permettere una replicazione, cioè una copia del manufatto virtuale, in tempi molto brevi. Tempi molto brevi si traducono in 5-6 ore di solito nell'industria. Anche una giornata intera se è necessario. Quello che può fare la stampa 3D rispetto alle tecnologie attuali è quello di creare manufatti talmente complessi, autocontenuti, che al momento non è possibile. Banalmente posso citare un esempio: una sfera con dentro dei meccanismi. Oggi non è possibile fare una cosa del genere con i macchinari attuali. Con la stampa 3D puoi stampare un oggetto che già funziona ed è rinchiuso dentro un involucro mai aperto. Sì, e poi c'è un'altra cosa che si dice spesso, che oramai la stampa 3D ha raggiunto costi abbastanza popolari, perché ci sono stampanti 3D che uno si può comprare e portare a casa per alcune centinaia di euro, comunque meno di 1,000 euro, e in casa si può fare degli oggetti anche abbastanza semplici, utilizzando appunto plastiche che vengono fuse e spruzzate sopra una base, quindi in qualche ora si possono produrre cose. Ci sono molte aspettative, c'è chi pensa che addirittura dice che la stampa 3D rappresenta la terza, quarta, non so a che punto siamo, di rivoluzione industriale, perché poi dipende dai punti di vista, insomma, la prossima rivoluzione industriale. Sei d'accordo o un po' esagerato? Sono d'accordo, ma con una postilla, nel senso che asterisco, nel senso che la stampa 3D è in divenire possibilmente quello che hai detto te adesso. Però non solo la stampa 3D, è la fabbricazione personale. Spesso ci si dimentica che in realtà quello che si mette in gioco non è un macchinario, non è una tecnologia, ma sono persone con la loro creatività. Allora, proprio in quest'ottica noi abbiamo visto con la nostra stampante uno strumento, abbiamo creato uno strumento per dare alle persone con creatività le possibilità di mettere in pratica la loro creatività. Allora, in divenire i replicatori, cioè strumenti che tu gli chiedi una tazza di caffè con dentro il caffè già caldo e te lo fanno, in divenire sicuramente arriveranno nei 50, 100 anni, non si sa. Beh, forse un po' prima, dai. Beh, sì, vediamo. Sei ottimista. Se siamo ottimisti. Allora, pochi giorni fa la NASA ha annunciato che manderà sulla Stazione Spaziale Internazionale una stampante 3D per produrre pezzi di ricambio. Sì. Sicuramente pezzi di ricambio non sofisticatissimi, però questa sicuramente è una prospettiva. Chiaramente la NASA è all'apice dell'innovazione tecnologica e vedremo queste cose nella vita di tutti i giorni fra qualche anno, quindi questa è sicuramente una prospettiva, ad esempio la produzione di pezzi di ricambio in zone remote dove la logistica è difficile. Assolutamente. Allora, per aggiungere un'altra cosa, la NASA ha fatto anche ha stampato in 3D l'ugello di un razzo e l'ha testato, quindi di fatto loro sono in grado di replicare parti di razzi che sono in assoluto i componenti più complessi possibili, immaginabili, e non solo, ha un programma per mandare dei robot sulla Luna e usare la regolite lunare, che è la polvere, per stampare delle basi temporanee su cui poi mandare gli astronauti nel 2020-2030. Quindi già queste cose ci danno l'idea di che cosa si può fare. Allora, la vostra macchina, la vostra azienda, la vostra startup si chiama Fab Totum. La macchina come si chiama? Beh, anche la macchina si chiama Fab Totum, okay. Ma è fabbricatore personale, personal fabricator. Ok, fabbricatore personale non l'avevo mai sentito, effettivamente dà l'idea. Ma spiegaci, allora, a maggio del prossimo anno, quando io potrò acquistare questa macchina, innanzitutto quanto costerà, più o meno, allora, secondo i vostri piani? Sicuramente non costerà più di quello che deve costare, nel senso che noi abbiamo cercato di trovare il compromesso migliore tra le funzioni e il price point a cui questa tecnologia deve essere venduta secondo noi. Secondo noi, appunto, essendo un fabbricatore personale che deve essere disponibile per tutti, deve essere una tecnologia democratica e quindi essere accessibile a un prezzo che è vagamente pari a quello delle prime stampanti laser, quindi attorno ai 700-800 euro. Per arrivare nel giro di pochi anni, voi dite a poche centinaia, cioè 200-300 euro. Assolutamente, sì. Che cosa ci potrò fare? Beh, non so, quali sono i tuoi hobby? La cucina, mi piacciono molto le cose fatte in cucina. Beh, allora potresti... Allora, cibo non lo potete produrre. No, ancora no. Però... Beh, potresti costruirti dei set di reggi posate o oggetti ad uso come delle presine, con materiali diversi, puoi costruire dei sottobicchieri, puoi usare la stampa 3D anche per stampare, nel nostro caso, visto che è una multifunzione, aggiungere una testina fatta apposta e spruzzare la Nutella sul pane, se proprio vuoi stupire gli ospiti, sì. Senti, però immagino che questo non sia il vostro target di riferimento, non so quanti possono spendere questi soldi per appunto farsi in casa degli oggetti che utilizzano. Poi ci sono sicuramente anche molti appassionati che vorranno fare questo, ma il vostro cliente tipo chi sarà? Beh, in realtà è anche lui in divenire, ovviamente non a questo prezzo, perché se lo usa solo per fare le cose di Nutella ovviamente non è il massimo. Però dando la possibilità di avere questa flessibilità, noi contiamo di tirare dentro tanta gente che magari della stampa 3D non è interessato, sulla stampa 3D non ha interessi, però dell'idea di poter lavorare, scansionare diversi materiali, trova diciamo un punto di contatto con questa tecnologia. Quindi comunque voi siete più interessati al cliente finale, diciamo, che sta in casa, piuttosto che a professionisti che vogliono utilizzare la stampa 3D o tutte le altre funzionalità della vostra stampante per professione. Quindi architetti o ingegneri, aziende che fanno questo per business. Beh, anche loro, nel senso che il computer in realtà viene usato per tutti e due gli scopi, anche se è nato poi per uso professionale, se pensiamo al disegno industriale CAD. Come del resto le stampanti, le prime stampanti plotter ad aghi erano un'esclusiva degli studi, per esempio di architettura, di ingegneria. Non a caso viene chiamato fabbricatore personale, perché al pari del computer personale o personal computer, questa tecnologia deve essere ovunque. In quest'ottica il fabbricatore personale non è altro che un punto di creatività che può essere disponibile ad architetti se vogliono fare dei modellini, a degli ingegneri se vogliono fare dei pezzi meccanici da prototipare e così via, ma fino alla casalinga che vuole riparare una maniglia. Senti, questo è ancora oggi innanzitutto è già un mercato o di fatto è talmente di nicchia che non lo si può nemmeno definire mercato? Beh, io personalmente dicevo che ho sempre detto che era un mercato, nessuno mi credeva, poi a luglio dell'anno di quest'anno MakerBot Industries, che era una delle numero uno come prodotti consumer, diciamo, vendeva 12 milioni di dollari solo nel primo trimestre e a luglio è stata acquisita da Stratasys, che è una delle big, per 506 milioni di dollari, quotata in borsa. Quindi direi, insomma, che siamo nel mercato. Siamo adesso nel mercato. Senti, se uno oggi si vuole comprare una stampante 3D, lo può fare facilmente, è difficile, complicato, deve andare su siti particolari, forum, e quanto deve spendere? Ce n'è per tutti i gusti, nel senso che ci sono prodotti che costano poco e sono già assemblati, ce ne sono tanti che costano poco e non sono assemblati, ce ne sono tanti che costano tanto e sono assemblati o che non sono assemblati. E dipende in realtà al momento a quale filosofia o a quale, diciamo, community ti vuoi aggregare. Cioè ci sono gruppi differenti come quello del RepRap e tutti i derivati che in realtà danno i pezzi e gli schemi gratuitamente per costruirsi la propria stampante. Il loro paradigma di sviluppo è basato sulla simbiosi. Loro pensano che, io concordo, che una stampante che riesce a replicare i propri pezzi diventa come un fiore per l'ape. Cioè, il fiore sostanzialmente si fa impollinare dall'ape, l'ape trae beneficio da questa cosa e tutti e due sono contenti. Le stampanti si replicano all'infinito e la gente ha a disposizione uno strumento di fabbricazione. Questo è un concetto molto molto interessante. Perché anche la vostra stampante prevede la possibilità che uno si prenda un kit e se la faccia. Assolutamente sì. A quanto? Quanto costa? Al momento $999. L'idea è quella di fare una stampante finita a quanto? Sotto i 1000 euro. Sotto i 1000 euro. Però non nei primi mesi. Non nei primi mesi. Bene, Marco, in bocca al lupo. Grazie. Crepi il lupo. E crepi. Adesso abbiamo una breve pausa, poi parleremo ancora un pochettino di stampa 3D e poi Internet of Things, o come si dice oggi, Internet of Everything. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Vi dicevo all'inizio della nostra trasmissione che da questa settimana è possibile ascoltare Radio 24 in digital radio senza soluzione di continuità se uno viaggia in autostrada dall'Austria fino a Roma. Quindi è stata coperta tutta questa dorsale, poi l'annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane, ne parleremo anche a 2024. Una cosa interessante è che questa tecnologia, quindi la radio digitale, si sta diffondendo in tutta Italia e il primo target di riferimento sono le persone che si spostano in automobile, visto che i maggiori disturbi dell'FM si sperimentano in automobile. Beh, è proprio con l'automobile che possono sperimentare i più grandi vantaggi nel passare alla radio digitale. Servono ricevitori ad hoc apposta per ricevere la radio digitale, quindi un'idea sarebbe, quando si acquista un'automobile nuova, porre attenzione alla disponibilità, meglio se di serie, di ricevitori DAB Plus per ricevere la radio digitale. Molte case automobilistiche lo offrono come optional, in alcuni casi in modo ingiustificato molto costoso, e quindi questo potrebbe essere un parametro da aggiungere quando si sceglie un'automobile. Ci sono alcune automobili che lo offrono di serie. Ne parleremo presto di digital radio. Se volete maggiori informazioni anche sulla copertura dei segnali che oggi ci sono, che arrivano dai principali editori radiofonici italiani nazionali, andate su digitalradio.it. Abbiamo parlato di stampa 3D, un'altra idea a proposito di quello che si può fare o si potrà fare con le stampanti 3D arriva dalle vincitrici della Start Cup Milano Lombardia 2013, che ha premiato alcune idee innovative. E a proposito di stampa 3D, sentite che cosa ci dice Ambra Mazzelli, che è una delle fondatrici di Animaker. Animaker è essenzialmente una stampante 3D che permette ai bambini e alle famiglie di produrre i giocattoli a domicilio. Oltre a fornire una stampante 3D che i bambini possono utilizzare direttamente, che quindi rispetta tutta la regolamentazione nel settore dei giocattoli, Animaker fornisce ai bambini anche delle card e un'applicazione con cui le famiglie possono modificare i giocattoli e quindi produrre il giocattolo personale a casa. Si utilizza un materiale che è il PLA, che è un materiale completamente atossico e quindi riciclabile, perfetto per i bambini che possono avere un'esperienza di apprendimento, un'esperienza ludica, ma anche giocare in completa sicurezza con le proprie creazioni. Attualmente questa è un'idea e quindi non esiste ancora la stampante. Voi pensate che questa stampante esisterà quando sul mercato e soprattutto a che costi? Allora, il lancio del prodotto è previsto per dicembre 2014, in accordo con quella che è la stagionalità della domanda di mercato, ovviamente. E i costi, allora, producendola industrialmente, il costo si potrebbe aggirare intorno al centinaio di euro per la stampante. Beh, sicuramente interessante, ci dà un'idea di quello che si può già oggi fare con le stampanti 3D o quello che si potrà fare. Vedremo se questa idea diventerà realtà, quindi se anche in questo caso ci sarà lo switch to product. Un altro mega trend è quello che da anni commentiamo, ma che potremmo dire in questi ultimi tempi sta cominciando ad accadere, ovvero la Internet delle cose. La cosiddetta Internet of Things, o come si dice oggi, visto che Cisco ha coniato un nuovo modo per raccontare questo trend, la Internet of Everything. Immaginate infatti che tutto quello che noi abbiamo attorno sia connesso. Ormai potremmo dire che anche noi siamo connessi, visto che lo smartphone è un prolungamento della nostra persona e quindi di fatto noi siamo già connessi attraverso lo smartphone, ma possiamo immaginare che mano a mano che la tecnologia diventa sempre più indossabile e tutto quello che noi indossiamo sia in qualche modo connesso alla rete, fornisca informazioni grazie a sensori che sono sempre più capaci di raccogliere dati, ad esempio biometrici, se riguardano la nostra persona, a costi sempre minori. Beh, immaginate che appunto noi siamo connessi e tutto quello che ci sta attorno, magari non i sassi e non alcune cose che proprio sono inutili, ma i muri della casa, i vetri, le lampadine, il rubinetto, il nostro letto, insomma, che tutto abbia sensori e sensoristica così sofisticata che dia informazioni alla rete. E uno dice: ma che cosa ce ne possiamo fare di queste informazioni? Beh, allora, primo ingrediente, usare la fantasia. Ci sono i dati a disposizione o possono essere raccolti in quantità maggiore dati di qualsiasi genere, di tantissimi tipi. Beh, ci sono nel mondo persone che stanno pensando a che cosa possono essere utili questi dati, ma ci sono tante idee. Insomma, già oggi, se pensiamo ai 1000 sensori che esistono nelle nostre città, come le videocamere, che di fatto sono sensori, ci sono molti utilizzi di queste videocamere. Se pensiamo ai dati di traffico che sono raccolti da tanti sensori, è chiaro ed evidente il ruolo che questi dati hanno e avranno sempre di più. Insomma, gli usi sono tantissimi. Naturalmente, se uno capisce il concetto e le aziende comprendono le opportunità connesse a questo concetto, cioè la possibilità di connettere sempre più oggetti, di raccogliere sempre più dati, si possono pensare a miglioramenti del proprio business, a creare, si possono pensare nuovi prodotti, nuovi servizi e naturalmente nuovi mercati. In tutto il mondo ci sono tante aziende che stanno investendo e stanno pensando questo mega trend. Recentemente ho partecipato ad un evento molto interessante realizzato da VEM, che è un system integrator italiano che sta fortemente pensando alla Internet of Things, proponendo tanti servizi, i servizi anche di aziende internazionali, alle aziende, alle società italiane. E se noi pensiamo alla nostra produttività, di cui si discute sempre, alla nostra competitività internazionale, sicuramente investire in tecnologia e cominciare a capire che cos'è la Internet of Everything è una cosa importante anche proprio per il sistema paese. Ma durante questo evento organizzato da VEM è stato invitato un professore universitario che ha fatto un salto un po' più in avanti rispetto a quello che già oggi possiamo realizzare. Abbiamo parlato di Internet of Things, Internet of Everything, partendo dalle piante, dagli alberi, con il professor Stefano Mancuso, che è il direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze. Sentite questa intervista che ritengo estremamente interessante. Prima di tutto dobbiamo cominciare a capire che le piante, contrariamente a quanto siamo stati abituati a pensare, non sono degli organismi passivi che stanno lì, vegetano appunto. Noi usiamo addirittura il termine vegetare per dire una cosa che non ha sensibilità e non ha più capacità intellettive. È proprio il contrario. Le piante sono innanzitutto, da un punto di vista di sensibilità, sicuramente molto più sensibili rispetto agli animali, cioè riescono a percepire ciò che accade nell'ambiente, nel loro ambiente, in maniera estremamente sofisticata e selettiva. E in più hanno delle capacità cognitive che ovviamente non sono paragonabili neanche lontanamente a quelle degli animali, ma che hanno, diciamo, che permettono loro di risolvere dei problemi. Allora, come si può utilizzare questo? Che interesse ha questo per la tecnologia? L'internet delle cose essenzialmente funziona attraverso l'immissione di sensori nelle cose, cioè noi prendiamo qualunque cosa, prendiamo una sedia, un vestito, un microonde, una macchina, gli infiliamo dentro dei sensori tecnologici che servono a misurare la temperatura, la pressione, i gas o quello che si vuole, e otteniamo, diciamo, e usiamo questo oggetto per rilevare dei parametri quando viene utilizzato. Io credo che il concetto possa essere ribaltato se guardiamo alle piante, cioè invece che andare a infilare dei sensori nelle cose, andiamo a prendere delle cose che sono piene di sensori. Che sono già sensori. E che sono già dei sensori di loro e che sono diffuse dappertutto. Allora, qui dove ci guardiamo intorno ci sono soltanto piante. Sì. È un dato che non si conosce molto, ma il 99,7% della biomassa del pianeta è fatta da piante, vuol dire che noi uomini e tutti gli altri animali insieme siamo lo 0,3%. Non contiamo praticamente nulla. Non siamo tracce. Sì, sì. E vuol dire anche che in qualunque ambiente noi ci troviamo, noi non ci facciamo più caso perché tendiamo a eliminare questo background del verde, ma se ci facciamo caso un attimo ci accorgiamo che le piante stanno dappertutto. Allora, abbiamo una forma di vita che può in qualche maniera essere che ci può essere utile, che sta dappertutto e che è estremamente sensibile. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente riuscire a captare le informazioni che queste piante riescono a prendere, captarle, decodificarle, trasformarle in un formato leggibile e comprensibile da noi e poi mandate nell'ambiente. Perché anche questo non è noto, non si sa, cioè le piante intanto raccolgono informazioni, sì, attraverso i loro sensori e poi si scambiano informazioni, quindi sì, diciamo che di fatto sono una sorta di internet naturale. Sono di fatto un internet naturale, nel senso, da questo punto di vista sono straordinarie, nel senso che proprio le piante sono delle reti. Una singola pianta è già una rete di per sé, perché non è fatta come le piante non sono fatte come gli animali, sono fatte, le dovremmo vedere come una serie di moduli ripetuti tante tante tante volte, che come uno sciame, diciamo, ecco, una singola pianta è come uno sciame di insetti e che quindi collabora, ha un'attività coordinata e che è ovviamente fondata sulla trasmissione di informazioni, cioè se tutti questi moduli non si scambiano informazioni e non si coordinano, come non potrebbero funzionare insieme. Questa è la prima, quindi una singola pianta è già una rete che si scambia informazioni al suo interno. Le singole piante fra di loro sono delle comunicatrici incallite, nel senso che si scambiano informazioni attraverso molecole chimiche volatili su qualunque aspetto dell'ambiente, cioè sullo stato dell'atmosfera, se ci sono inquinanti nell'atmosfera, qual è lo stato dei suoli, se c'è acqua, se ci sono inquinanti, se ci sono dei patogeni, se ci sono degli ostacoli, se ci sono anche addirittura dei fuochi o delle persone accanto, qualunque cosa, diciamo, intervenga o interferisca con l'ambiente della pianta, viene dalle piante percepito e molto spesso trasmesso anche come informazione alle altre piante. Allora, se noi riusciamo, e una delle cose su cui lavoriamo noi molto, sono questi due aspetti, cioè uno, decodificare i segnali all'interno della pianta, cioè quello che la pianta, questi famosi segnali che i vari moduli di cui sì. è composta una pianta si scambiano. Per interpretare quello che loro sentono, okay. e che cosa significano. E la seconda diciamo, linea di ricerca molto importante del mio laboratorio è quella di decodificare i segnali che le piante si scambiano fra di loro, cioè una pianta con un'altra, che, come le dicevo prima, sono molto dettagliati e fra l'altro estremamente complessi, perché le piante hanno diversi livelli di comunicazione a seconda del grado di, come dire, parentela e vicinanza genetica con le piante con le quali si scambiano messaggi. Queste cose che ad alcuni potrebbero sembrare strane o comunque molto difficili sì. da concretizzare, in realtà è sono già come dire, reali, nel senso che voi riuscite già ad interpretare alcuni segnali. Sì, sì, certo. Tipo che cosa? Beh, per esempio, qualunque, partiamo da un concetto. La maggior parte dei segnali, dei cambiamenti nell'ambiente che una pianta percepisce, poi li trasforma, li manda in giro nel proprio corpo attraverso dei segnali elettrici. Quindi sono dei segnali elettrici non differenti da quelli che passano nei nostri nervi, molto meno complessi, ovviamente, quindi più facilmente decodificabili. Cosa vuol dire quindi questo? Vuol dire che una pianta sente qualche cosa nell'atmosfera, produce un segnale elettrico che, se noi riusciamo a decodificare, abbiamo un'informazione. Cosa siamo riusciti già a decodificare? Sappiamo, per esempio, possiamo sapere se una pianta è sottoposta a una luce naturale, una luce bianca, una luce blu o una luce rossa, quindi sappiamo come cambiano questi segnali elettrici in funzione della qualità della luce. Sì. Sappiamo come cambiano questi segnali elettrici in funzione della quantità di alcuni specifici inquinanti, come l'ozono, l'ossido nitrico e anche le polveri sottili. Per ora siamo riusciti a individuare dei livelli, cioè noi sappiamo quando c'è poco, medio o tanto. Sì. Però già questo è un buon risultato. Ed è comunque molto informativo. In un prossimo futuro intendo dire nel prossimo anno e mezzo, quindi non è una prospettiva lontana, lunghissima. Noi contiamo di ampliare, diciamo, la panoramica degli inquinanti che riusciamo a misurare, e contiamo di avere informazioni anche che provengono dal suolo, cioè contiamo di ottenere informazioni che provengono dalle radici, e quindi informazioni che riguardano essenzialmente la quantità di acqua nel terreno, che cosa c'è nel terreno anche da un punto di vista di inquinanti, se ci sono dei metalli pesanti, se ci sono dei pesticidi. Senta, per dare una prospettiva, appunto, lei ci dice che fra qualche anno già le informazioni che voi potete interpretare e raccogliere dalle piante sono moltissime. Qual è lo scenario e che cosa ce possiamo fare? Perché la pianta, voglio dire, è oltre che utile alla nostra vita, perché ci restituisce ossigeno, è anche bella da vedere, a volte serve per l'ombra. Ecco, certo. In questo caso lei ci dà un ulteriore motivo per avere le piante. Cosa si potrà fare? Dunque, quando io immagino uno scenario fra i 5 e i 10 anni in cui noi avremo decodificato la maggior parte dei segnali che le piante percepiscono e si scambiano, avremo una mole di informazione incredibile sull'ambiente. Incredibile intendo dire che la cosa interessante è che questi segnali possono essere registrati con degli oggetti che costano al momento pochi euro e che è ragionevole supporre che in un futuro potranno costare pochi centesimi di euro. Cioè avete, voi avete delle scatolette noi che abbiamo delle scatolette che attacchiamo a una pianta che al momento fatte da noi nel nostro laboratorio costano intorno ai 10 euro cada uno, sì, quindi immagini già vuol dire che fatte a livello industriale costeranno mezzo euro, 50 sì, centesimi sì, sì. Il che vuol dire anche poterne mettere di queste scatolette a dismisura dappertutto nell'ambiente e avere quindi dati di qualunque tipo e di qualunque natura che riguardano quindi dati atmosferici, dati sugli inquinamenti, ma non solo. Immagini i viali di una città. I viali di una grande città normalmente hanno delle piante, degli alberi. Se noi mettiamo queste scatolette su ciascuno di questi alberi, abbiamo i dati sull'inquinamento in tempo reale e diciamo con un dettaglio al mezzo metro. Pazzesco, sì. E talmente precisi che possiamo sapere se una macchina si è fermata là sotto, cioè quindi possiamo utilizzare questi dati anche per avere delle informazioni di natura diversa, per esempio sul traffico, attraverso non soltanto la produzione di inquinanti, ma per esempio attraverso l'aumento delle vibrazioni. Le piante percepiscono l'aumento delle vibrazioni e reagiscono a questo, cioè le potremmo veramente utilizzare. Il numero di applicazioni possibili è infinito. Avremo a disposizione una rete ad altissima risoluzione con nodi posti in ogni mezzo metro e che riesce a percepire una quantità di parametri fisici e chimici che al momento è di almeno 25 parametri, cioè al momento sappiamo che le piante 25 parametri chimici al momento, però è probabile che siano molti di più. Lei ha parlato anche di incendi, ho sentito. Sì. Questo è interessante. Sì, ecco, per esempio, la questione degli incendi è ovviamente di grandissimo interesse. Non si riesce a proteggere gli incendi, soprattutto perché abbiamo delle segnalazioni che arrivano troppo in ritardo. Cioè, il bosco, dopo che il bosco è già partito, zone remote, per cui prima di arrivarci, insomma, sì. Già l'incendio è talmente vasto che poi è difficile spengerlo. Che cosa si può fare? Dotando un bosco, non c'è bisogno di dotare tutte le piante del bosco di questi oggettini, sì. che ne rilevano i segnali, ma basta pensare a una rete con una pianta ogni 20 metri, perché le piante, ma quando dico 20 metri potremmo anche essere più larghi, proprio 20 metri per essere diciamo super sicuro, perché sì. Le piante in questa maniera, perché le piante sono in grado, quando vengono colpite dal fuoco, quando inizia proprio il fuoco, in termini umani diremmo si spaventano. Lanciano degli allarmi sì, che si propagano anche per dei chilometri. Per cui basterebbe in verità pochi alberi in un bosco, monitorare pochi alberi in un bosco per sapere se sta partendo un incendio. Però per estrema sicurezza, visto che la tecnologia non costa nulla, certo, potremmo fare delle maglie di 20 metri e proteggere tutti i nostri boschi in una maniera incredibilmente dettagliata, nel senso che sappiamo istantaneamente, quando si forma una fiammettina, prima ancora che inizi ad essere pericolosa, abbiamo già l'allarme pronto. Certo. Senta, le faccio una domanda sul rapporto tra il laboratorio e le aziende, sì. Perché naturalmente tutto questo genererà dei business incredibili in termini di prodotti, in termini sì. di servizi, eccetera. Sì. Lavorate con le aziende? Quindi le aziende sfruttano poi con le aziende, lo studio, gli studi che vengono fatti in laboratorio? Con le aziende italiane no, purtroppo. In parte immagino sia per colpa nostra, perché non siamo, per una mancanza di comunicazione, cioè non ci si conosce. In parte credo però per un problema di tipo culturale, cioè noi abbiamo in verità delle collaborazioni di partnership con molte aziende o comunque gruppi di aziende, sia californiane che tedesche, che però sono interessate diciamo a collaborare con noi, anche se noi non possiamo fornire immediatamente un oggetto, perché non è quella diciamo il nostro compito, ma noi come dire abbiamo una visione, una cosa più a lungo termine, e da questo punto di però io credo che da questo punto non stiamo parlando neanche di visioni a 15, a 20 anni, a 30 anni, che capisco possono interessare alcuni ma non tutti, noi stiamo parlando di medio periodo, 4-5 anni, ecco. Normalmente per la mia esperienza mi sembra che le aziende italiane siano più interessate a qualche cosa, a delle tecnologie già presenti, cioè che possono essere immediatamente rese commerciali e industrializzate, mentre c'è direi che per esempio in California di sicuro le tecnologie esistenti interessano meno, e c'è una ricerca invece sul medio termine, medio e lungo termine, molto molto più intensa. Mi sembra molto interessante. Era il professore Stefano Mancuso, che è il direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze. Sul nostro sito internet e anche nella pagina Facebook di 2024 c'è un link. È molto interessante quello che diceva sulle aziende italiane a proposito di competitività, di produttività. Beh, se si guarda un po' più in là rispetto al presente, magari si riesce anche ad essere più competitivi rispetto ad altre aziende che invece un po' più in là nel tempo stanno guardando. Bene, adesso prima di concludere questa puntata di 2024 diamo uno sguardo, anche se alla radio è difficile dare uno sguardo, comunque sentiamo dalla voce di Luca De Biase, che è il responsabile dell'inserto domenicale dedicato a tecnologia e innovazione, ovvero Nova, la domenica assieme al Sole 24 Ore, a che cosa è dedicata la copertina, su che cosa puntano questa settimana. Luca, bentornato a 2024. Ciao Enrico. La copertina di questa settimana è dedicata a quello che potremmo definire Mr. Photoshop, giusto? Sì, abbiamo incontrato John Knoll, che ha fondato Photoshop, e lui voleva parlare di questo suo nuovo business, che è gli effetti speciali nel cinema. Perché lui non lavora più ad Adobe? No, lui ha lasciato quando ha fondato, poi ha fatto la sua vita, insomma. Sì. Adesso fa effetti speciali. E siamo partiti da un argomento totalmente diverso da quello di cui voleva parlare lui. Il pezzo lo ha fatto Luca Tremolada, che aveva in mente un altro discorso, cioè che Photoshop ha reso inautentiche le fotografie. Quello che noi parliamo, diciamo di solito, delle fotografie photoshoppate, cioè modificate, sì, da questo, sì, programma che lui, John Knoll, ha fatto, e che non ci raccontano più necessariamente quello che c'era, sì, in quel momento, la, sì, verità. Sì. Ci raccontano quello che ha voluto creare il softwareista che ci ha lavorato con Photoshop. E da qui siete partiti per dire che cosa? Perché cioè, fondamentalmente questo è il problema dell'inautentico, che è veramente un fatto apparentemente filosofico, in realtà che ci prende la vita di tutti i giorni. Perché noi questo discorso dell'inautentico nasce da una riflessione di una psicologa che si è occupata sempre della nostra relazione con il digitale, che si chiama Sherry Turkle, e lei si è messa a polemizzare con un suo collega intellettuale che sosteneva che in futuro i robot saranno così realistici, così interessanti, così fatti bene, che finiremo per amarli, e addirittura lui ipotizza che finiremo per sposarci con i robot. A questo punto il discorso del postumano, dell'inautentico, diventa un fatto che ci piglia davvero. Certamente un sacco degli tuoi ascoltatori staranno pensando: beh, però una robottina, come dire... Uno potrebbe allora, anche sperare che i robot si sposino tra di loro e ci lasciano stare. E questo stare, sarebbe però molto meglio. Infatti Sherry Turkle, che è molto più saggia della maggior parte dei nostri ascoltatori in questo momento, diceva: guardate che questo è il problema dell'inautentico. Che cosa è l'amore autentico? Può essere autentico l'amore per una macchina? Date una risposta oppure no? Ovviamente no, perché perfetto, è una domanda troppo intensa. Ognuno Senti, si deve altre porre cose questa cosa. Un po' più reali? Aspetta, perché lui... No, mica finito. Certo, perché gli abbiamo detto questa cosa e lui, John Knoll, diceva sì, veramente... E ha tirato fuori una frase che secondo me è abbastanza interessante. Cioè lui dice che fondamentalmente con gli effetti speciali del cinema, il cinema è capace di raccontare delle cose che non poteva raccontare prima. È capace di indagare in verità che non possono essere semplicemente fotografate. È capace di andare nel verosimile più che nel vero, cogliendo personalmente lo credo, degli aspetti che la fotografia pura e semplice non può mostrare, perché questi effetti speciali mostrano delle cose ulteriori rispetto alla semplice fotografia, e quindi va a indagare l'immaginario, che secondo John Knoll è la vera autenticità. Quindi alla fine questo percorso molto contemporaneo di ricerca che viene fuori da lì sbarazza un po' di preconcetti sull'inautentico e ci fa percorrere un percorso di ricerca dentro noi stessi attraverso il gioco delle tecnologie, ponendoci in un rapporto molto più intenso e interessante nei confronti di questi strumenti, che finiscono per essere dei modi con i quali noi tiriamo fuori quanto di più umano abbiamo e non quanto di meno umano abbiamo. Luca, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Ed è tutto per questa settimana, questa è la versione podcast di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Grazie per aver scaricato il file MP3 della nostra puntata, oppure averci ascoltato in streaming. Ci sono molte piattaforme che nascono ogni settimana, dalle quali potete ascoltare anche 2024. Ad esempio, l'ultima che è stata presentata si chiama Pure Connect. La Pure, scritto pure, P-U-R-E, Pure, è un'azienda britannica inglese che tra le altre cose fa anche delle bellissime radio per la radio digitale, per il DAB. Ci sono anche molte radio ibride, cioè che si collegano ad internet, e magari potete ascoltare il podcast di 2024 e poi ascoltare Radio 24 in digital radio, o anche gli altri canali aggiuntivi che esistono nella radio digitale. Maggiori informazioni li trovate su digitalradio.it. Io vi dicevo, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio anche Anita Panizza che mi ha aiutato in redazione. Potete continuare a scriverci per suggerire temi, per tirarci le orecchie se abbiamo detto qualche cosa che non andava bene, anche se lo hanno detto i nostri ospiti. Gireremo l'email ai nostri ospiti, che a volte rispondono, a volte no, però insomma non possiamo sgridarli più di tanto. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024.